Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Non potendo schivare il pericolo, vi corse incontro, perché i momenti di quell'incertezza erano allora così penosi per lui che non desiderava altro che d'abbreviarli. Affrettò il passo, recitò un versetto a voce più alta, compose la faccia a tutta quella quiete e larità che poté, fece ogni sforzo per preparare un sorriso. Quando si trovò a fronte dei due galantuomini, disse mentalmente: «Ci siamo», e si fermò su due piedi. «Signor curato!» «Cosa comanda?» «Lei ha intenzione. Lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella.» Cioè, lor signor sono uomini di mondo e san benissimo come vanno queste faccende. Il povero curato non c'entra nulla. Fanno i loro pasticci tra loro e poi vengono da noi come s'andrebbe a un banco a riscotere. E noi siamo servitori del comune.» «Orbene, questo matrimonio non sa da fare, né domani né mai.» Ma signori miei, si degnano di mettersi nei miei panni? Se la cosa dipendesse da me, vedo bene che a me non me ne viene nulla in tasca. Orsù, se la cosa avesse a decidersi a Charlie, lei ci metterebbe un sacco. Noi non ne sappiamo, né vogliamo saperne di più. Uomo avvertito? Beh, uomo avvertito lei ci intende. Ma lor signor, son troppo giusti, troppo ragionevoli. Ma il matrimonio non si farà o... E qui una buona bestemmia. O chi lo farà non se ne pentirà, perché non ne avrà tempo e... Un'altra bestemmia. Zitto. Il signor curato è un uomo che sa vivere il mondo. E noi siamo galantuomini, che non vogliamo fargli del male, purché abbia giudizio. Signor curato... L'illustrissimo signor Don Rodrigo, nostro padrone, la riverisce caramente. Questo nome fu, nella mente di Don Abbondio, come, nel forte d'un temporale notturno, un lampo che illumina momentaneamente, in confuso, gli oggetti e accresce il terrore. Fece, come per istinto, un grande inchino e disse: «Se mi sapessero suggerire...» «Oh, suggerire a lei che sa di latino! A chi tocca, e soprattutto, non si lascia uscir parola su questo avviso che l'abbiamo dato per suo bene. Altrimenti, sarebbe lo stesso che far quel tal matrimonio. Via, che vuol che si dica il suo nome all'illustrissimo signor Don Rodrigo?» «Il mio rispetto.» «Si spieghi meglio.» Disposto sempre all'obbedienza.» «Ciao a tutti, l'avete riconosciuto?» «Ma sì!» «Dai, allora dimmi il titolo, Ila.» Aspetta, l'abbiamo studiato alle medie? Vabbè, no. Ciao a tutti, benvenuti al nuovo ciclo di puntate Mafia e Letteratura. Io sono Valentina. Ilaria. Eleonora. E in questo... E il nostro tecnico. Saluta. Ciao a tutti. In questo ciclo di puntate abbiamo deciso di parlare un po' dell'origine, dello sviluppo della mafia in un modo un po' particolare, cioè attraverso i libri e la letteratura. Cioè abbiamo ricercato dei libri che parlavano di mafia e non, soprattutto, per rivenire un po' come si è trattato della cultura, del modo di fare mafioso fin dalle origini ai giorni nostri. Infatti il pezzo che di Manzoni, appunto, che abbiamo scelto parla proprio dei bravi, che erano appunto i signorotti di Don Rodrigo, gli scagnozzi di Don Rodrigo, che seppur riferiti a un'epoca storica diversa e soprattutto a una regione geografica molto diversa, ricordano un po' i gabellotti delle origini, che nella Sicilia di metà 800 facevano i signori, gli scagnozzi dei galantuomini, dei latifondisti nelle campagne. Tanto per fare un po' di pubblicità al ciclo di puntata che abbiamo fatto prima sulle origini delle mafie. Ma prima di entrare nel vivo del discorso, allietiamoci con un po' di musica sulle note di Long Black Road degli Electric Light Orchestra. They used to tell me, boy, you ain't going nowhere with your cheap guitar and your big long hair. You gotta realize all your responsibilities. You gotta get out to work and face reality. gotta get up in the morning, take your heavy load, and you gotta keep going down the long black road. Long black road. So I drifted for a while down the road to ruin. I couldn't find my way, I didn't know what I was doing. I saw a lot of people coming back the other way. So I kept on going when I heard them say, you gotta get up in the morning, take your heavy load, and you gotta keep rolling down the long black road. Possiamo dire che la prima opera in cui appare veramente il termine mafia è I mafiosi della Vicara, un'opera teatrale del 1863. Un'altra che possiamo citare è un'altra opera teatrale, La mafia, del 1921, scritta da Giovanni Alfredo Cesareo. Tuttavia queste due opere non sono molto significative per il discorso che vogliamo fare, perché parlano di mafia in termini molto lusinghieri, diciamo. La presentano il mafioso come una brava persona che dispensa giustizia, ripara i torti, soprattutto di tipo sessuale. Quindi insomma è una mafia molto edulcorata in come viene descritta, mentre noi vogliamo parlare della mafia come effettivamente è. Hai letto qualcosa? Ah sì, diciamo ci sono un sacco di libri che tra l'altro presenteremo nel ciclo di puntate. Uno dei primi che volevo citare è Il Gattopardo. Interessante. Quindi non studi soltanto sui manuali di giurisprudenza. No, siamo tutte persone acculturate qua dentro. Okay. Ci mancherebbe altro. Meno male. Potremmo annoiarci troppo altrimenti. Comunque, volevo parlare del Gattopardo. In realtà Il Gattopardo è un'opera che non cita esplicitamente la mafia, però ci sono alcuni personaggi un po' particolari. Del tipo? Per esempio volevo parlare di Don Calogero. Don Calogero è un personaggio molto simile, possiamo dire che è l'antenato forse di alcuni politici del nostro tempo. Quindi adesso leggerò la sua descrizione, così per presentarvelo un po'. La verità, eccellenza, è che Don Calogero è molto ricco e molto influente anche. Che avaro, quanto la figlia era in collegio, lui e la moglie mangiavano in due un uovo fritto, ma che quando occorre sa spendere, e poiché ogni tari speso nel mondo finisce in tasca a qualcheduno, è successo che molta gente ora dipende da lui. E poi quando è amico, bisogna dirlo. La sua terra la dà a 4 terraggi e i contadini debbono crepare per pagarlo. Ma un mese fa ha prestato 50 onze a Pasquale Tripi, che lo aveva aiutato nel periodo dello sbarco, e senza interessi, il che è il più grande miracolo che si sia visto da quando Santa Rosalia fece cessare la peste a Palermo. Intelligente come un diavolo del resto. Vostra eccellenza avrebbe dovuto vederlo nella primavera scorsa. Andava avanti e indietro in tutto il territorio come un pipistrello, in carrozzino, sul mulo, a piedi, pioggia sereno che fosse. E dove era passato si formavano circoli segreti, si preparava la strada per quelli che dovevano venire. Un castigo di Dio, eccellenza, un castigo di Dio. E ancora non veniamo che al principio della sua carriera. Fra qualche mese sarà deputato a Torino e fra qualche anno, quando saranno posti in vendita i beni ecclesiastici, pagando 4 soldi si prenderà i feudi di Marca e di Mascidaro e diventerà il più gran proprietario della provincia. Questo è Don Calogero, eccellenza, l'uomo nuovo, come deve essere. È peccato però che debba essere così. Ci vedeva a lungo, un secolo fa però, quasi un secolo fa. Sì, assomiglia, insomma, è uno dei primi, è il sindaco di questo paesino siciliano e alla fine non sembra così diverso da certi uomini che possiamo vedere adesso, senza far nomi. Comunque adesso cambieremo discorso, parleremo di un altro libro, ma prima Ilaria ci presenta la nostra canzone per distrarci. Ci siamo scatenati un po' prima, adesso ci incupiamo con Tenco e la sua Lontano Lontano. E lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. E lontano, lontano nel mondo, in un sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro. E lontano, lontano nel tempo, l'espressione di un volto per caso ti fa tanto. E lontano, lontano nel mondo, una sera sarai con un altro e ad un tratto chissà come e perché ti troverai E adesso arriviamo a Calvino e vorrei concentrarmi specialmente in un suo racconto, La speculazione edilizia, che lui pubblica nel 63. Partiamo dalla storia. Siamo nel secondo dopoguerra, fra il 50 e il 60, c'è un boom economico e in Italia effettivamente ci fu tale boom e soprattutto si sviluppò un conseguente boom edilizio che portò al fenomeno della speculazione edilizia, con grandi spostamenti di masse di popolo e soprattutto con un accrescimento sempre maggiore di urbanizzazione di zone prima appunto agricole. Nello specifico appunto nell'opera che voglio raccontarvi, appunto La speculazione edilizia, Calvino ci parla di ci narra di un giovane intellettuale iscritto al Partito Comunista, Quinto Anfossi, che torna nel suo piccolo paesino Ligure, della quale un paesino immaginario, infatti Calvino non ci dà un nome di questo paesino, ma lui lo lo cita sempre mettendo semplicemente tre asterischi ogni volta appunto che parla di questo, e ci parla appunto di lui che torna in questo paesino e appunto siamo nel periodo del dopoguerra, quindi c'è un la famiglia risente di problemi economici e vediamo come e qui vediamo anche come Calvino in realtà dal punto, ma qui ci sarebbe tutto un discorso letterario da fare, io non ne ho le competenze, vabbè poi là non possiamo parlare tutta la serie, no, di Calvino, però ci piacerebbe un sacco, sì. Qui Calvino, innanzitutto qui Calvino affronta il tema dell'intellettuale che si trova di fronte appunto a questo nuovo fenomeno, quello della speculazione edilizia, perso, perché trova e si trova di fronte a qualcosa della quale appunto non sa le fattezze di questo nuovo fenomeno. E appunto Quinto, invece che si troverà appunto a dover in qualche modo riscattare le questioni economiche della propria famiglia, in particolare della madre che cura il proprio giardino bellissimo, e dietro questo giardino c'è tutta una descrizione della bellezza in quanto tale che Calvino fa, ma infatti qui non possiamo parlarne, vediamo appunto come Quinto si trovi di fronte appunto a una scelta. Nel momento in cui gli si profila l'opportunità di anche lui cedere e quindi anche lui speculare, la speculazione edilizia appunto narra il titolo, racconta il titolo, invece che allontanarsi dal tentatore che è impersonato da un imprenditore, un montanaro trasferitosi a il paesino di Quinto che appunto Calvino non cita, dove ha intrapreso la sua carriera di impresario truffaldino dedito alla speculazione edilizia, si avvicinerà a appunto Quinto, e Quinto invece che allontanarlo, lui intellettuale, lui sinistroide, lui iscritto al Partito Comunista con tanti ideali, li abbandonerà e cederà anche lui appunto alla speculazione edilizia, che si rivelerà naturalmente vana, non riuscirà a lucrare come avrebbe voluto, ma vediamo come qui appunto Calvino ci racconti e ci parli di una mafia, perché possiamo vederla qui, una mafia, una prima forma di mafia, che è a portata d'uomo, che è vicina e alla quale l'uomo può sempre comunque cedere, come fa Quinto nel racconto. Leggo solo un piccolo passo. Quinto reagiva sempre buttandosi dall'altra parte, abbracciando tutto quel che era nuovo, in contrasto, tutto quel che faceva violenza, e anche adesso, lì, a scoprire l'avvento di una classe nuova del dopoguerra, di imprenditori improvvisati e senza scrupoli, e lì si sentiva preso da qualcosa che somigliava ora a un interesse scientifico, ora a un contraddittorio compiacimento estetico. La squallida invasione del cemento aveva il volto camuso e informe dell'uomo nuovo Caisotti. E adesso arriva il momento della nostra puntata in cui abbiamo la nostra meravigliosa rubrica. Ma prima dobbiamo porci una domanda importantissima. La nostra rubrica, Buffier, piace a Geova o a Satana? Dopo questo bellissimo e assolutamente profondo lancio e pertinente lancio della rubrica, passiamo alla rubrica vera e propria. Vi abbiamo fatto ascoltare prima Long Black Road degli Electric Light Orchestra. E non è stato un caso, perché oggi vogliamo parlarvi in questa rubrica proprio di American Hustle. American Hustle, di regia di David Russell, si basa sui racconti dell'operazione Abscam che è avvenuta negli Stati Uniti alla fine degli anni 70, nel momento in cui c'era stata già la decadenza di Nixon, c'era un grande livello di corruzione tra i politici e senatori di tutte le categorie, e praticamente questa storia si svolge nel New Jersey con al centro Irving, interpretato da un grande Christian Bale, e Sydney. Interpretata da una grandissima Amy Adams, che ha vinto anche un Golden Globe come migliore attrice protagonista di o commedia o musical, non si sa perché gli abbiano dato proprio questa cosa. Comunque sia, è un film molto bello con un grande cast, c'è anche Bradley Cooper che si fa i ricci, sì, con i bigodini, signori, e questo vale la pena andare a vedere questo film solo per quello, sì, assolutamente. Ma anche Jennifer Lawrence, che ha vinto come un Golden Globe come migliore attrice non protagonista, e anche un grandissimo Robert De Niro, che fa un piccolo cameo del mafioso, però è molto bello. Abbiamo scelto questo film soprattutto perché parla dell'inganno e del mezzo dell'inganno per incastrare degli altri ingannatori, insomma. è un film che... E poi si rivelerà un colpo di scena finale. Sì, c'è un colpo di scena, cioè una storia... non ci sono ancora arrivato. Beh, allora non te lo diciamo perché sennò... Si è addormentata la mia compagna di film, quindi ancora l'ho visto. Allora non possiamo dirlo perché sennò poi Lilla ci rimane male. No, chiaramente comunque sia, è una storia molto complessa con una trama che è molto ben costruita su tutto il film, che non demorde mai, secondo me, dal punto di vista di attenzione al pubblico, ha una gran bella colonna sonora. E poi ovviamente posso dire, per puro gusto personale, che è diventata nei miei anni preferiti, gli anni 70, quindi io vi consiglio assolutamente di andarla a vedere. Anzi, accorrete perché sono gli ultimi giorni al cinema. Sì, e dopo questa breve recensione vi salutiamo e vi lasciamo con un brano dei Dropkick Murphys, Tessie. Ciao! Ciao! Ciao. Tessie is the royal rooters' rally cry. Tessie is the tune they always sung. Tessie echoed April through October night, after serenade installed in Eden Young. Tessie is a maiden with a sparkling eye. Tessie is a maiden with a love. She doesn't know the meaning of her sigh. She's got a comet full of love. Sometimes when the game is on the line, Tessie always carried them away. Up the road from third base to Huntington, the boys would always sing and sway. Charge into the park, storm the gates and put the gates.